libro è nato in una maniera molto singolare, perché qualche anno fa, una decina di anni fa, ho conosciuto Marisa Zanetti, la sorella di Marcello Zanetti, che è uno dei protagonisti del romanzo, che mi chiese di scrivere il libro, un libro su suo fratello. Arrivamo a conoscerci perché io stavo facendo una ricerca, e a quel tempo per l'associazione Moroni di Ponticelli, sulla resistenza intorno a San Pietro in Casale, ma albergo, e ci imbattemmo per caso in questo personaggio, appunto Marcello Zanetti, la cui storia era molto singolare, perché gli viene dato il comando della seconda brigata Paolo pochi giorni prima della liberazione, e compie insieme ai partigiani che comanda un atto molto coraggioso, che è quello di liberare San Pietro in Casale dai bombardamenti per far fronte alla minaccia degli alleati che volevano bombardare il paese per tanare i tedeschi che erano asserragliati lì intorno per difendere la ritirata dei propri alleati. E quindi chiesi notizie in giro su questo partigiano di cui si parlava poco e niente, e conobbi appunto sua sorella, che aveva impiegato i 30 anni, che adesso sono diventati 40 perché ne sono passati altri 10 da allora, a cercare la verità su suo fratello, perché a prescindere dalla storia molto interessante, che è dalla parabola che questo personaggio percorre all'interno dei 24 mesi della lotta di liberazione, la sua fine, che avviene pochi mesi dopo la liberazione, è ancora un fatto molto controverso dal punto di vista storiografico, per quanto la famiglia in questi 30 anni è riuscita anche addirittura nei dettagli a capire poi che cosa è successo a Marcello Zanetti. È un fatto che era frequente nel dopoguerra, come dire, fine misteriose? La cosa singolare, la cosa che mi ha fatto molto piacere, è che parlando in giro di questa vicenda, che siamo riusciti a capire nei dettagli solo negli ultimi mesi, perché il dove, come e quando era chiaro, ma il perché no, Marcello muore in circostanze così controverse, parlando con varie persone che erano anch'esse interessate di queste storie, sono venuti alla luce questioni più diverse, e quindi che nei mesi successivi alla liberazione sicuramente sono stati regolati i conti che non erano stati regolati durante la guerra civile, ma qualcuno si è un po' approfittato del clima di vendetta che c'era in quei mesi per regolare anche vicende personali o questioni che riguardavano più l'economia, le questioni economiche, i soldi più che la politica. Una vicenda di cui mi sto interessando in questo momento, perché sto già pensando al prossimo romanzo, è quella per esempio di Edoardo Weber, che è scomparso qualche mese dopo la liberazione, nel maggio del 45 se non ricordo male, è stato prelevato da 3 persone, portato non si sa dove. La scusa con cui viene prelevato è per testimoniare in merito e quindi assolvere dall'uccisione alcuni operai della sua fabbrica, e poi il corpo non verrà mai più ritrovato. E da lì sono state fatte 1000 supposizioni, non ultima quella del coinvolgimento di persone che volevano acquisire l'azienda. Ecco. Il ventaglio delle cause che hanno portato a tutte queste sparizioni nel dopoguerra è molto diversificato, differente, e non è solo il movente politico. Il perché del titolo Falco? Falco, che erroneamente tutti, alcuni, non tutti, ha pensato essere il nome di battaglia di Marcello, sicuramente perché è un nome molto evocativo. In realtà non è il nome di battaglia di Marcello Zanetti, che era Marco, ma è il primo nome che viene dato al battaglione che viene appunto creato a Maccaretolo, frazione di San Pietro in Casale, da Marcello e altri compagni, che sono i veri e propri fondatori della seconda brigata Paolo nell'inverno del 1943. È il nome dei 2 aerei che lui pilotava, perché prima di essere congedato, prima dell'8 settembre, quando viene firmato l'armistizio tra l'Italia e gli alleati, Marcello era un pilota dell'aeronautica italiana, militare, pilotava questi 2 aerei, di cui lo sappiamo che pilotava questi 2 aerei perché abbiamo 2 foto. Marisa ha conservato 2 foto di Marcello di fianco a questi 2 velivoli molto differenti, uno è un biplano e monoposto, e l'altro è un monoplano prodotto dalle officine reggiane, uno degli ultimi aerei prodotti dall'aeronautica militare italiana. In quest'ultimo aereo aereo, Marcello nella foto è seduto sull'ala e l'abbiamo utilizzata per la copertina del libro, ed è una foto che a noi piaceva molto, e quindi abbiamo deciso di chiamare il libro in questo modo, un omaggio a due cose molto particolari della vita di Marcello: uno, il fatto che era un pilota, e due, il fatto che nonostante fosse stato un pilota e quindi militare dell'esercito italiano, dopo diventa partigiano e quindi fa confluire tutta la sua esperienza militare nella lotta di liberazione. Noi abbiamo deciso di fare un romanzo innanzitutto per riempire quei buchi che abbiamo trovato, nel senso che, per esempio, l'amicizia tra Marcello Zanetti e Piero Zayet, che è questo scrittore italiano che aveva fatto la prima guerra mondiale, che è una sorta di guida esistenziale, spirituale di Marcello, abbiamo trovato la testimonianza di questa amicizia in un libro che ci raccontava molto poco, e pensavamo che ci fosse tanto da dire su questa amicizia e sul perché poi Marcello compie delle scelte molto coraggiose per l'epoca. In più abbiamo deciso di scrivere un romanzo storico, appunto perché Marisa e Giuseppe, i parenti di Marcello, non volevano creare troppo scompiglio. Quello che ha sempre mosso la loro ricerca è stata l'idea di non creare imbarazzo e di non creare problemi all'immagine della resistenza di San Pietro in Casale o comunque dei paesi limitrofi. Non hanno mai voluto, se avessero voluto avrebbero potuto andare a depositare una denuncia presso i carabinieri, quindi fare un processo, ma non era questa l'idea. Quindi abbiamo cercato di fare un romanzo che ci desse la possibilità di comunque giocarcela con un patto letterario tra scrittore e lettore, che potesse non dare per assodato e assolutamente certo tutto quello che veniva scritto.